buonasera. Ciao profe. Oia, sono un po' fuggiti tutti. Luca. Salino, visualizza la foto dell'antenna e della mia radio. Cosa ti sembra l'antenna? Bella. Sono messa in alto. Ciao, greve, ci così forte. Anche la radio non è male. Va bene, piccola e sincera. E questa qui, lo stesso, è omologata. Non c'ha né canali né nulla. Come l'ho comprata, l'ho lasciata, perché... Perché più che questa non posso usare. Quando l'antenna me lo permette, giustamente. Questa non so se ha nemmeno... forse ha la modalità canale che posso inserire e disinserire, però ce l'ho in modalità frequenza, quindi quando devo cambiare canale mi devo ricordare le frequenze, capito? Sì, non è un problema quello. Sì, ma tanto c'ho anche una tabella di tutti i canali, per cui se mi devo spostare già faccio veloce. Infatti, no, io non ne ho frequenzine, però c'ho i canali qua. E boh. Va bene. Claudio, fai un passaggio con questa radio che hai messo. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, ma la radio mi interessa, il segnale già lo so che è buono. La radio è perfetta, io qua sento benissimo, pulito, sento un po' il fondo della stanza, ma è ovvio che ho l'amplificazione, però è buono, è anche il microfono. Già va bene, non un problema allora, dai. Ottimo per la truppa. Plante come sempre. Va bene, schirreggia forte. Tutti forti siamo, però, sono pochi ormai quelli che hanno il segnale basso. Sono fuori Sassari, se fosse stata Carbonati lì dove sei tu, mamma di turchi, già sei 9.40 così, se no mi arrivavi ancora più forte perché io da lì ti vedevo, da qua non ti vedo. Già mi vedi, perché io vedo più o meno dove sei tu, capito? Quindi in linea d'aria noi siamo proprio senza ostacoli. Sì, si conferma, ottimo per la truppa. Vai Bongo, facci sognare. Cosa sogni? Sei tornato con l'altro, vediamo come ti ascolto col Gassi, parla. Sono tornato con questo, guarda a vedere. Ah, io sono bomba, ma lo vedo sovizzente. Ma per favore. Ma poi Natalì, come lo senti tu Antonio? Fammi capire. Come? Come lo senti Antonio? Tu lo senti bene? Va male, lo sento. Vabbè. Tu che hai detto una la modulazione gioia. Ma io complisco. Io lo sento non bene, no, benissimo, caro lo stesso, tutti bene. Ma qua anche col Gassi ti sento un bel forte, Antu. Va un bel bene. Allora già va bene, dai. Vabbè, già vuoi dire, ti ha pagato. Io ti ascolto bene, poi problemi non ne ho. Non lo saggio. Va bene. Ma è Gianni Doppio Root che fine ha fatto? Attento, Doppio Root. Non lo so, non è entrato poi, chiuso. Ah, è arrivata gente, non lo sapevo. Aio, fa vedere però, parlate, dite qualcosa. C'è qualcosa, là, domani devo rientrare a lavorare, vaffanculo, non ne avevo voglia. Non dire a me, sono passato prima, quando c'erano, a parte il fatto io i giorni di festa, per me non ce n'erano. Io lavoravo sempre, ero reperibile, io lavoravo sempre, perché uno di turno ci doveva essere sempre, capito? Quindi no, ne ho passato tante, di questo periodo mi soprattutto. Il 31 magari facevo la mattina, uscivo alle 2, il primo ero di primo turno alle 6, quindi, capito? Il 2 poi nuovamente di turno, così il 24. 24 lavoravo di mattina, no? Sino alle 2, perché facevo dalle 7 alle 2, tutti i santi giorni, alle 2. Poi reperibile il 25. 25, quindi non potevi andare da nessuna parte e capitava sempre a me, no? Il 25 mattina alle 8 squillava il telefono, dimmi, sei irreperibile? Sì, allora si è fermato l'impianto di Trenitalia-Gulto, va bene, arrivo e via, biglia la macchina e truba del caldo. Tutti gli anni così, per 35 anni, sempre, sempre, sempre. Pasqua, Pasquetta, la stessa cosa. A Pasqua di mattina, dalle 7 alle 2, a Pasquetta, dalle 7 alle 2. È pesante, pesante. Io sono una vita che faccio i turni, perché anche i 10 anni che ho lavorato al Banco di Sardegna ero turnista, perché quando c'era il centro elaborazione dati in via Umana, lì facevamo turno di mattina, turno di sera e turno di notte. E poi ho fatto un altro lavoro, lo stesso turni, poi ho fatto 4 anni, 5 anni quasi di viaggi in tutta la provincia di Sassari, e adesso sono altri 12 anni che sto facendo i turni e ne avrò un'altra decina massimo. Molto belle sono i turni, va. Io ho fatto lo stesso i turni, però poi fortunatamente ne sono uscito. Facevo dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10, dalle 10 alle 6, capito? Però c'avevi i 2 giorni di riposo, a volte anche 3, e quindi compensavi, insomma, di riposarti. Però mai a Sassari, era una zona di perfora, sempre alla gallura, sempre nella bassa anglona, sempre in giro a destra e a sinistra, senza quelli che ho fatto a Cagliari, alla Saras, la stessa cosa, senza quelli che ho fatto a Leniche, tutto un troiaio, credimi. I turni sono soprattutto per chi insomma è già a un'età già grandetta, i turni sono a rottura di base. E infatti poi domani mi fanno rientrare, ero libero e riposo sabato e domenica, domani rientro, c'è un turno centrale, mi hanno messo dalle 11 alle 19, 8 ore, poi martedì invece poi riattacco alle 6 e esco alle 14, poi c'ho altre 2 mattine per vedere, poi libero venerdì. E non riesci a combinare molto quando c'hai così turni, perché poi rientri, sei stanco eccetera, e questo è il motivo per il quale ti dicevo, se riesco a metterla in questi giorni che avevo qualche giorno di ferie più libero e riposo, l'antenna, meno male l'ho messa, così almeno non c'ho più lavoretti da fare, capito, di extra. Ma infatti è così, bisogna ti dico, vabbè, pazienza, avanti Cicco. A me si sente. Eia, riprendi Cicco, fai girare. Gappa, se volevo chiedere, Carlo così è, ma forse io l'ho già visto da qualche parte a lui. Può essere, perché io sono sempre in giro, Anto, già può essere. Ma cosa fai, lo vigilante fai? No, diciamo che noi facciamo il controllo ai passeggeri, capito? E quindi abbiamo, diciamo, la divisa normale quando facciamo il controllo passeggeri, bagagli a mano e la videosorveglianza, invece quando facciamo il pattugliamento abbiamo un'altra divisa che può essere simile a quella delle guardie giurate, capito? Anche se noi non facciamo servizio armato, facciamo solo scorta, armi e possiamo prenderle giù dall'aereo, portarle all'ufficio di polizia, perché siamo autorizzati, abbiamo un decreto per il trasporto armi e valori. Ah, ho capito. Lavori all'aeroporto, lavori. Ehi Anto, un giorno comunque già ci incontriamo, se ti fa piacere, con Natalino ci beviamo un caffè. Non è un problema, magari chissà quanti voci da giubisco. Chissà, già lo organizziamo con Natalino una mattina che c'ho libera, magari quando c'è il turno di sera, più o meno, tanto tu non sei distante da dove è Natalino, dai. Solo che deve essere di domenica, capito? O di sabato sera di domenica, perché io se no sono sempre lavorando. Facciamo di sabato di domenica allora, no, non c'è problema. Cappa, basta dirmelo. Volentieri, magari convinciamo anche a Claudio a venire, se no andiamo a prenderlo. Bianco, per me, vado a tirare una sussa dei ravioli, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, ok Gianni. Picchia forte. sembra te, picchia forte. Ehi, sì sì, va, le pongo in padella, le diamo una bella scaldata e ce le sbraniamo, dai, ci sentiamo dopo. Gianni, che si fa? Capa, ehi, vado a voi, andiamo a mangiare pure io, roba più leggera però. E adesso dopo le scorpacciate di Natale, Capodanno, roba leggera ci vuole almeno la notte, dai. Penso proprio di sì. Ci vuole proprio roba leggera, sì. Salatina, la fettina girata, oppure la mozzarella con l'insalata, l'olio d'oliva e frutta. La pasta di notte non va bene, così dicono. Ehi, ehi, aspetta un attimino che ti faccio un colpo di telefono, ok? Ehi, adesso, chiamami che già sono qua. Luca, ci sei ancora? Scusate. Fate pure. Sta lì, ci sei tu? Sì, sono qui. Stavo dicendo a Antonio, un giorno già ci incontriamo a berci qualcosa insieme, però lui giustamente mi stava dicendo che durante la settimana non gli va bene, capito? Lui sta sempre lavorando, capito? O il sabato sera o la domenica mattina è libero. Allora lo facciamo una domenica mattina, capito? Già va bene, anche domenica 9 mi se vi va bene. E adesso glielo chiediamo quando viene. Venite, domenica 9, vi invito io, perché è il mio compleanno. Per quello c'era anche Antonello, vediamo se è rientrato. Antonello o si deve essere spostato. Claudio è andato via, Gianni è andato via, Antonio è al telefono con Claudio. Luca, Luca non lo so, non l'ho sentito se è assentato oppure ancora l'ascolto. Avanti Luca, se ci sei, batti un colpo. Non c'è. E niente, mi Natale. Già ci incontriamo, che mi fa piacere a vederti. Dimmi una cosa, ma tu a Bonorva ci sei mai venuto? Sì che sono andato a Bonorva. Tante volte. Sa che tu venivi con Maria Lucia, zio Antonello, può essere? No, andavo per altre cose a Bonorva, capito? Magari ci sarò venuto con mio padre, però non me lo ricordo la verità. E perché io mi ricordo il tuo nome, però non mi ricordo in quale circostanza, ma io lo sentivo molto, capito? Così si chiamava mio nonno, che non abbia sentito riferito a mio nonno. No, non è cosa di gente grande, capito? È gente più o meno così della tua età, e può essere, capito? Vuol dire che mi nominavano. Non lo so. Da giovane una 500 hai avuto per caso? No, 500 proprio non ne ho mai avuto io. 126, una macchina del genere, piccola. Io mi ricordo chissà perché, ho qualche matrimonio di qualche parente nostro, boh, non lo so. Ci sono, buonasera! Può darsi, c'è uno che sta salutando, basso in basso. Avanti, chi è? Buonasera, sono Eugenio, buonasera. Buonasera, Eugenio, Porto Torres, buon anno. Carlo e Natalino qua da Sassari. Ciao Carlo, finalmente riesco a sentirti dopo tanto. Ciao Zio Natalino. Eugenio, buon anno a te e a tutta la famiglia. Auguri a tutti i loro signori del canale 10. Buonasera. E allora, chi si dice? Eugenio, qua stai arrivando bene, io ti sento molto bene, forte e chiaro. Santiago di 8:40, Radio 5. Qua sto passando i punti praticamente, capito? Ti sei in zona Sassari. Sto passando i punti. E allora Carino, questa antenna piazzata? Nuovo attivo, non me ne fanno piazzare. C'è uno che si è messo il traverso, Eugenio. Non c'è Cristo. E qua questo è un delinquente che forse conosci tu, mi, perché abitava dalle tue parti. Chi è questo qua che lo picchiamo subito? Lo mettiamo male subito, la cagli. Ma, boh, non so come fare, c'ho tutte le antenne qua da piazzare, non posso fare nulla, perché questo si è messo in traverso. Prendilo alle buone, Natalie, magari poi già si ammorbidisce. Ui, che incazzato nero. Non vuole manco il palo, non solo l'altro. Ne vuole togliere anche quella che c'è. È la sua di proprietà, la casa, la facciata dove c'è il palo. No, e c'ho anche lui è affittuario, io c'ho anche il permesso del padrone di casa sua, figurati. E lui che è un delinquente, un ex rapinatore, capito? Ma basta, allora, tutto detto. Sì, sì, a parte non te lo può vietare, capito, di mettere un'antenna, eccetera. Sì, però magari è un personaggio così e bisogna prenderlo con le molle, a meno che non fai tutto quando lui non c'è, capito? A cose fatte poi, cosa ti può dire? È un piffero. E infatti, non... vediamo un po' cosa si può fare. Se riesco a prendere la ribone è buono, se no prenderemo provvedimenti. Piano piano, vediamo se Eugenio ci sente ancora. Avanti Eugenio. Riesci ancora a tirarmi fuori, sì. Sì, Santiago, adesso si è sceso un po' di segnale, però già si sente bene ancora, Eugenio. Ah, andiamo, qua in croce a San Giovanni, da parte mia, la picco. Ma, qualcuno sta rientrando, me, c'è Eugenio. Allora, buonasera, allora. Rientrando col mezzo? Sto rientrando a casa dopo tre giorni di festeggiamenti, di mangiato, di abbuffato, di bevuto, oh mamma. Hai fatto bene. Ciao Natale, ciao anche Carlo, se non sbaglio. Signore, siamo qua, sì sì, all'ascolto con Natalino e... ed Eugenio, avanti, avanti. Capo, toccate per voi. Avevo gente a casa, quindi ho dovuto mollare. Claudio, ci sei? Io mi sa che ho un telefono con Antonio, si sono sentati un attimo e penso che rientrino tra un po'. A te famiglia. Avete parlato in due, cos'è tu Natta? Che Claudio è al telefono con Bombolino. Auguri, buon anno a te e a tutta la famiglia, dai. Capo, tutto contraccambiato a tutti, Dove eri Eugenio? Quella nuova che hanno fatto, che mi stavi parlando tu, di quell'amico tuo. Poi mandami le coordinate su Messenger. Avrò modo magari, dai, che domenica, non questa domenica, la prossima, forse vado a, non so, a Nuoro, però vediamo. E tu sei camperista? Ma ci fai a Nuoro? Fatti andare a Nuoro. A vedere la neve, dai, proprio. Sì, sì, a vedere la neve. Non ce n'è neve. No, allora non ci vado. E se ho sentito le previsioni, dice che per l'Epifania, insomma, quella data lì, c'è la possibilità di ritorno di aria fredda e qualche nevicata può darsi nel Nuorese che la faccia, non da queste parti. Infatti, vabbè. Quest'anno l'ho vista da lontano, diciamo. L'ho vista, sarà 25 giorni fa a Bonorva, lì sull'altipiano di Campeda, era tutto bianco. E il aveva nevicato, mi sa, la domenica e lunedì c'erano anche problemi in quella zona. Ma sei di Bonorva? Sì, sì, io sono originario là, sono nato là, e però sono vivo a Sassari, capito? Ma io a Bonorva qualche anno fa, vabbè, forse 3-4 anni fa, o anche di più, avevo conosciuto Gio Maria, credo che già lo conosci, che ha un terreno dove fanno il sughero, se non mi sbaglio. Gio Maria, e più di uno ne conosco a pensarci. Ma cosa c'è, azienda agricola? Sì, è conosciuto, quindi. Penso di aver capito, perché anche il sughero c'ha lui. Sì, positivo. Sì, è giù dopo la piana di Santa Lucia, salendo a Mariani sicuramente. Dino, come va questo Galaxy Turbo? Me l'ha amplificato, va bene, Agra. Ascolta, il segnale, bene, va, 80 watt da. Grazie, però, già va bene. Galaxy Turbo, 80 watt. A voglia, quasi 9,20. Sì, 80 watt da, 80. 80 watt da, P&P, 80 watt modulati. Sì, diciamo che è un bel similare alla tua modulazione naturale. È bella, però no, si può usare per fare due chiacchiere, no? Sembra un keynote. Però se andiamo a ottare più 3, ce l'ho a 2, è la massima potenza, 80 watt sta segnando. Va bene, e tu stai arrivando fortissimo lo stesso, vabbè. Salutami Anna, che l'ho appena sentita. Ehi, contro il cambio, no? Contro i gradi, vabbè, un po' che ti sono vivendo, buono su questo, sono bei denti, anche il video sono bei denti. Saluto a tutti, saluto. Amici Eugenio che sta salutando. Ehi, Eugenio, ti ascoltiamo ancora, dai, a te il mic. Guarda oggi io ho problemi di ricezione per quanto un inverter attaccato con delle batterie che mi fanno un po' di alternata, diciamo, ma riesco a ascoltarti ancora bene, sei quasi Santiago 9, la radio è un pochino bassina, però riesco a tenerti fuori, magari ti ascoltano meglio gli altri, dai, rilancio a Carlo. Carlo, vai avanti tu e vedi un po' come va per Eugenio. Tizzino, adesso gli faccio il controllino. Qua, Eugenio, quando hai fatto il passaggio mi sei arrivato Santiago 8, Radio 4, capito? Già va bene, sei quasi a Porto Torres e ti sentiamo ancora. Vai, Eugenio. Vai, Eugenio, alle prossime. Vai, Claudio. Gabba, ciao Eugenio, buonasera e ben ascoltato. Gappa, va bene, che va bene. Ciao Eugenio, ciao, ci si riascolta. Miau, miau, miau. Sì, ciao, va bene quella radio. Ehi, me l'hanno detto che funziona benissimo. Funziona benissimo alla grande. Questo è una canonata, ma c'è una bellissima ricezione anche. Molto bella, sì, molto bella. Carlo, sei sul più del 30 qua, quindi più o meno lo stesso segnale che ti do col K, Anche Tino lo stesso è sul 2, quindi è più o meno lo stesso segnale del K, abbastanza preciso anche. Chi c'è rimasto? Non c'è rimasto più nessuno. Se c'è ancora Antonio, sei rientrato. Antonio, ci sei? C'era Natale, se non mi sbaglio, Chi c'era? Natalino Panevino. È staccato anche lui. Tino, me lo dai un controllo preciso, ti viene bene? Sì, perché no, quasi 9,20, dai, 9,20 lo fai con i picchi positivi. E va bene. Tu da che zona più o meno moduli? Periferia Rateo, cioè QTH Campagnolo. Cavolo, qua mi stai arrivando a bomba. Già va bene, Benemeda. Vai Claudio. Vabbè, tu dove sei però? Sono su a Lunesole, tra via Lunesole e via degli Astronauti, capito, all'angolo dove c'è quel parco delle suore, là il palazzo mio è là dentro. Ah, ho capito, io lo so poco, ho capito. Sì, va bene. Grazie, va bene. 9,40, no, che arriva più forte di Roberto, una bomba, Ha montato la Gipolo uguale alla mia, va bene. Tu la Gipolo hai? Io sì, c'ho la Smart Tech della J-Pro Smart Tech 7 ottavi, non 5 ottavi, 7 ottavi, 8 metri e 50 di antenna, e lui ce l'ha quella la mia, gliel'ho fatta avere io. Bene, ma dove vanno bene? A lui vanno bene, c'è 5 punti S di differenza dalla Mantova, con la Mantova tu mi arrivi 9,15 neanche, con questa mi arrivi 9 più 20 pieno. La stessa cosa per tutti, avete 5 punti di essere, vabbè, da 5 ottave a 7 ottave, è chiaro che la ricezione cambia, ma cambia anche la trasmissione. Vai Carlo! Sì, a voglia. Hai visto ieri, io non avevo mai collegato Ozieri da Sassari, anche se poi siamo passati in banda laterale, ma anche in AM riuscivo a sentire l'amico Luigi, mi sa, sì, Luigi Lima 1, lo sentivo con Santiago di 5-6, la radio era di 3, poi invece in banda laterale, quando sei entrato anche tu, si sentiva forte, si sentiva chiaro e bene, quindi segno evidente che questa antenna va benissimo. Ma tu hai visto cosa è successo prima nel canale 10? Cioè quando ero con la Mantova, io non lo sentivo a Luigi, quando poi dopo cena abbiamo fatto la prova nel canale 40, lì ho commutato la G-Pol, ha visto cosa è successo? Cioè c'è un abisso, non c'è niente da fare, erano 7 ottavi, arrivava Santiago 3, Santiago 3, con la Mantova non lo sentivo, mentre con la G-Pol Santiago 3, quindi tu immaginati la differenza che c'è di ricezione e di trasmissione, e lui mi sentiva lo stesso segnale 3, capito? Però io ho cambiato postazione, non è più davvero prima che magari avevo il varco più aperto per Ozieri, qua è leggermente più chiuso, però arrivi lo stesso, arrivi perché l'antenna è più performante rispetto alla Mantova. Claudio di Muros, che non ha ostacoli, lui su tutta quella piana lì di Mores, Chilivani, Ozieri ci arriva tranquillamente, però da Sassari insomma c'è un bel monticello e anche un dislivello notevole, quindi già va bene questa antenna, ottima. E ottima, io prima di fartela comprare ho fatto le prove, ho detto aspetta io la sto provando, una vicino all'altra la differenza c'è, no, c'è niente da fare. Ma ti ripeto, una 7 ottavi, 8,50 m, l'altra è più bassa dei 5 ottavi. La differenza è tutta lì. E poi l'abbiamo visto che io prima con la Mantova non lo sentivo, poi quando ho commutato con la G-Pol è salito il segnale di brutto. Sentiva sia lui a me che io a lui, capito? Tutto lì, con poca potenza, non è che... tutto qua. Vai ti. Sì, io questo rumore è fastidioso, guarda, è che non sto utilizzando, sono, devo cercare di eliminare questo correme perché va a volte, sai, quando si scarica una batteria o quando si caricano va a aumentare anche, adesso ce l'ho quasi Santiago 7, ed è fastidioso, non è che devo cercare di... di qualche filo di massa, non so, devo vedere, mi serve un po' di tempo per studiarci sopra perché effettivamente non è bello quando hai, per dire, un problema 1-2 e te lo battono a 6-7, è fastidioso. Mamma mia, a me il QRM, vabbè, io ce l'ho molto molto basso. A me, non hai provato a consultare Fabrizio per cosa ne pensa, se ti dà una qualche indicazione precisa, lui che è nel settore anche. No, vabbè, in questi giorni siamo sentiti solo per gli auguri e basta, niente di... credo che sia una cosa di massa, perché praticamente lui è silenzioso, però all'interno chissà cosa fuoriesce, capito? Ho capito. No, vabbè, anch'io ho sentito per gli auguri e basta. Però, ma lo chiami, mi vedete, fai sentire il rumore, ma è lui, sai... con il lavoro che fa, ti può dire che cos'è esattamente, ma ci va qualche filtro, qualcosa, vedere un po'. Vai Carlo. Sì, sì, è da vedere, perché quando sale così il QRM è fastidiosissimo e devi lavorarci molto alto, escludi un sacco di altri segnali, e senza dubbio è un fastidio enorme, e quindi Tino, se riesci a risolverlo è la cosa migliore. Avanti Tino. Sì, risolvo, guarda, lo spengo e lo risolvo, è quello il problema, è che ho fatto un impiantino, sai, con quattro pannelli solari da 24 volts, ne ho 6 pannelli solari, quindi me li hanno regalati e li ho voluti chiuso così, provare a fare una sorta di energia così rinnovabile per giusto a faccio un inverter da 2 kW e vedere cosa ne togliamo fuori. Cosa ti trasforma da 12 a cosa, gli accumulatori e poi l'inverter? Sì, ho fatto da 24 volt che sono i pannelli, ho fatto una sorta di 4 batterie collegandole in serie in parallelo, e poi va a andare nell'inverter che da 2000 a 4000 watt di picco e poi trasformarla in 220. Sicuramente dovrai fare qualche schermatura, se no magari c'hai disturbi in radio, certo, se vicino poi ai cavi e li senti sicuramente, quello è, può essere anche l'inverter. Sì, sicuramente, perché ne avevo un altro di inverter, diciamo, pari qualità, diversa marca, e non lo faceva. Da io da poco lo stesso avevo ogni tanto un disturbo, così mi saliva il QRM e ho notato che era quando entrava in funzione la caldaietta che ho fuori nel terrazzino, dove passa anche il cavo dell'antenna. E poi come si chiudeva l'acqua calda, si spegneva, finiva il disturbo. E ho notato che siccome io dentro casa avevo il display della caldaia con un filo che passava vicino al cavo dell'antenna. Quindi cosa ho fatto? Ho eliminato quel display, l'ho messo fuori vicino alla caldaietta, quindi me l'ho tolto da dentro casa, ho allontanato il filo, l'ho messo dall'altra parte e non ho più il disturbo e ho risolto così. Per te magari la cosa è un po' più complicata, capito? Perché dovresti o schermare bene quell'inverter oppure cambiarlo addirittura. Arrivo subito, ragazzi, che devo girare la cosa al fondo. A Claudio. E io, siamo qua. Sì, Carlo, diciamo la verità che è una cosa fatta un po' così, quindi non è che ci ho studiato sopra, ecco. Non ci ho studiato sopra, l'ho fatta come era prima e ha funzionato, insomma mi dura adesso attaccandoci un forno dura circa 3 ore di autonomia, sempre a pieno ritmo, quindi una soddisfazione tra togli di cottura, ecco, poi vanno a ricaricarsi nuovamente. E come succede nei camper, dai? Sì, sì, ho capito, tempo fa un lavoro del genere l'aveva fatto un amico in campagna che non aveva la corrente, capito, e l'Enel gli aveva chiesto un sacco di soldi per portargliela, perché il palo distava non so quanti chilometri da lì, quindi avrebbe dovuto pagare una cifra esorbitante, quindi gli avevano consigliato di mettere i pannelli solari sul tetto, aveva messo degli accumulatori e poi l'inverter, e praticamente lui aveva sempre il frigorifero collegato, se voleva accendersi la televisione andava così, ed era un'ottima cosa, perché sì, aveva speso nel comprare i pannelli, l'inverter, fare tutto l'impiantino, però poi la soddisfazione è che non paghi l'energia, ce l'hai sempre disponibile, per il poco consumo in una casetta così di campagna era la cosa ideale, capito? Ma penso anche in una casa privata, ecco, e come hai fatto. Il problema è questo disturbo che penso che prima o poi lo risolverai. Sì, vabbè, io non è che lo sto usando, io ce l'ho fuori giusto per se non ho punti luce, quindi messo questo qua, si apre un trappa, fa giusto qualche lavoretto, fa da te, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Non è per uso casalingo, capito, quindi non è che mi fai più di tanto. Invece che ce l'ho, devo fare qualche lavoretto con un trappa, ce l'ho appeso, attacca corrente che stare più lunghe, più lunghine, più lunghette. E quindi va bene così. Beh, è utile comunque perché insomma ricavare energia pulita è la cosa migliore, capito Tino? Sì, vabbè, poi. Vabbè, no, io adesso volevo provarlo prima così e poi metterlo tra virgolette nel camper per poter utilizzare un forno, insomma ci vuole un inverter grosso, dai. Lo so, un bel investimento è quello, dai, però se riesci a farlo sul camper è un'ottima cosa. Sì, vabbè, ma se non è poi così necessario, almeno che va in libera, se no nelle piazzole, nell'area sosta, diciamo che sempre c'è sempre la possibilità di poter attaccare queste cose qua. Ma addirittura l'anno scorso ero nella spiaggia di Cocorucci, insomma, e avevo il condizionatore acceso da una mattina a sera, sempre tranne che la notte, che magari si riposava bene. Ho capito, sì sì. Bene, Meda, e la radio ce l'hai nel camper, sì. E quella è la prima cosa che io ho messo. Ho capito, i camperisti quasi tutti ce l'hanno, dai, la radio in macchina. E infatti ho un amico che si è preso il camper e mi ha detto che ce l'ha, che l'aveva acquistato, gli avevano dato anche la radio, ma non la usava mai. Ho detto, scusa, una volta che sei là accendi, no? E magari qualcuno lo senti. Invece lui non l'accende mai, c'ha un baracchino dentro con l'antenna messa bene, capito? E non l'ha mai usata. Sì, dai, diciamo che già ci vuole, dai, ti fa compagnia, secondo dove stai andando, solo che io da quando ce l'ho poca gente ho sentito in strada, quindi non è più come una volta, dai. Quando l'ho utilizzato in strada, io parlo dell'89, allora c'era un sacco di gente che lo aveva, quindi ti dava delle informazioni, insomma ci parlavi con la gente. Adesso più che altro parti con quelli che hanno la stazione base, in strada c'è poco e niente, dai. Iattino, purtroppo mi chiamano e mi devo allontanare un attimo, magari rientro tra 5 minuti credo, se no poi sarò in ascolto tra un po', perché alla radio ci sono un bel po', mi sta chiamando mia figlia per risolvergli un problema col computer, mi sposto nell'altra stanza, non so se c'è ancora Claudio, proviamo a mandarlo avanti, così ti lascio in compagnia di qualcuno, se c'è Natalino, Antonio. Tranquillo, che non c'è problema, tanto io sono al PC qua, ce l'ho in ascolto, sono in quel Rix, non c'è problema. Bene, Meda, va bene, sono qua, ciao ciao. Ciao, grazie Tino della chiacchierata, ci sentiamo più tardi al limite, ci sentiamo più tardi anche agli altri se sono in ascolto. Va bene. Eccomi qua, sono tornato. Ci dovuto allontanare Carla. Va bene. Già spinge il cazzo, boh. Sono contento di questa radio, ma va veramente bene, metti. Sì, adesso via, adesso stavo dicendo come mai non c'è, ho messo lo squeccio perché ero al computer e poi stavo ascoltando l'altra radio in diretta. Va bene. Io, una bella ricezione c'ha, esatto, una bella radiolina, funziona bene. E tu, quindi, e lo vedi stamattina quando ti ho sentito, lo vedi? Stamattina mi sono dedicato a fare un po' di roba in macchina e poi dentro il campo c'avevo lì acceso ascoltando perché stavo pulendo l'interno e quindi ho fatto un passaggio, ma ero in una piazzale. Arrivavi bene, vabbè, io non ero a casa, ero da Antonio, però arrivavi benissimo, alla grande. Antonio, non te la pongo. Ehi, sono andato e avevo un problema al microfono, l'ho sistemato. Ah, cappa. E tu mi hai chiesto, come la radio non era, per me non era la tua, quindi così ho espresso il mio parere. Sì, perché è normale, quella radio che c'ha lui ti non è spinta come quella che ci avevi tu, che avevi preso dalle 20 le avevo fatta io, queste mie sono tutte tirate, quella che c'ha Giulio lo stesso era la mia è tirata, quella che c'ha Franco è tirata, tutte quelle che ho dato io sono tirate, ma quella lì è nuova praticamente, non aveva neanche l'ultimo decimale, non è mai stata usata neanche quella lì, capito? Quindi no, non spinge come le nostre, assolutamente. Ho capito. Non lo so, non era la tua classica, ecco, sennò andava bene per carità, cioè c'era l'applicazione c'era, ma non era spinta come del solito. Questa è bella, No, non può mai spingere come quella che c'ho io, ho capito. assolutamente, perché è solida, amico, è vergine, ecco, capito? Non è mai stata toccata. Non è mai stata toccata quella roba. Se pure voleva farla diventare turbo, si può far diventare anche turbo, però, ripeto, io no, le mani non ce le metto. Se la tieni così, l'importante è che esca bene, che lo sentano, se poi non è amplificata eccessivamente, va bene lo stesso per me, io lo sento bene. No, questa funziona, funziona. Ehi, cazzo, mi ha messo le cuffie, veramente sembra il capo. Sì, va bene, va bene. Ne ho visto una, solo se mi apprenderla, pure da Francicia, vabbè, ne vuoto tanto, per l'attività che c'è, mi sembra che ne volevano 150. Sì, io ho pagato 30 euro in più, dai, 180, ma c'è anche l'altra, quella normale, e grazie, stato un ecco normale, ma sono io due. Sì, ma claro, sono radio, ti ripeto, sono radio belle, per carità, hanno un'oretta, quindi io faccio sempre un po' di riferimento a quella che avevo io, il brutto, che Fabrizio l'ha aggiustato parecchie volte, aggiustava una cosa e si rompeva un'altra, aggiustava quell'altra e si rompeva un'altra ancora, alla fine gli ho detto, asco, fa una cosa, tienitela per pezzi, boh, fane come vuoi, te la regalo. Sì, poi sono uguali, mi precisa identica a quella normale, solo che c'ha un amplificatore dentro, capito? Ha un amplificatore da 100 watt dentro, e basta, meno basta, mi cosa pensi che faccia? Sì, magari gli hanno messo un 747 all'interno e va bene, anziché ce l'ho attaccato, ce l'hai lì, cioè, dentro conservato, va bene uguale. Ma io, ti ripeto, io ho preso questa carta del 5005 da Gio Maria, nuovo in scatola, di pacca, nuovo di pacca, e l'ho pagato così stesso, quindi al posto del Galaxy ho questo. Sì, ma va bene anche quelli, e io ho il Galaxy Uranus, ho l'Elbex 8021 che va bene lo stesso, ho già ne ho baracchini, l'Uranus è una bella radio, c'ha pochi watt, è una gaggata, poi quando lo spegni se ne va a 26 MHz, ogni volta che lo accendi devi rimemorizzare di nuovo, lui è sempre dentro l'armadio, nuovo di pacca, capito? E allora li tengo lì, poi veicolare, io non ne ho appostamente veicolare perché ho le linee Kenwood, ho due Galaxy, ho il 757 anche, la linea di Aesio, ho lo standard, ho le V e le U, non è che posso fare baracchini, non ce ne stanno, capito? Quelli base li metti una a fianco all'altro, poi non so per l'altro, va bene, ma i baracchini devi mettere staffe, devi metterle, appoggiarle con i gommini sopra le radio, no? Poi questi sai perché sono belli T, perché sono a 220, non hanno alimentazione, se no cazzo che hanno alimentato i vivoni. Vabbè, sì, hai ragione, io mi guarda, stavo cercando, così, stavo guardando, non cercando, perché non è che, ti ripeto, anche le altre frequenze mi stanno diventando un po' così, un bibanda mi hanno proposto un TM 731, non so se lo conosci. L'ho avuto 731, 732, 701E, 702, lo stesso che bibanda, il 599 della Linco e bibanda, sono delle belle radio, io ce l'ho i veicolari, ne ho due, uno lo usavo in macchina, l'altro ce l'ho che lo sto usando, perché l'820H Marco me l'ha mandato al centro assistenza, perché era diventato sordo, quello base della Icon, quello grande, capito? Infatti penso che mi chiameranno la prossima settimana, non so se è pronta, se per dirmi cosa devo mandare, e che vi vedo goipo, però ho deciso io di metterlo a posto perché è una bella radio. E sto usando il veicolare che mi manda anch'io, sto usando la Linco, il 599 della Linco, capite? Ma io ho il 2725, in ascolto, però sai, non ti bastano le frequenze, quindi ne vogliono altro per mettere gli altri due. Oramai siamo così, siamo tornati un po' in V, in U, sui ponti, a destra, a sinistra, e quindi ce ne vogliono un po' di più, però 27-25 l'ho avuto anche io, l'avevo, la Bippa l'aveva girato a Fabrizio, ce l'ha ancora in macchina, boh, non so se l'ha messo, non so se ce l'ha ancora, quello lì, quello col coso della Icon, quello verde, là. Fa molto bene anche quella, ah, qualcosa la trovi, MT, qualcosa la trovi. Sì, sì, no, vabbè, mi ero proprio fatto questo, non so quanto possa valere questo 731. Il 731 più di 100 euro sicuramente vale, perché è un bellissimo fibanda, c'ha la ventolina, c'ha i toni, c'ha tutto, quindi sicuramente più di 100 euro vale. Guarda, mi ha proposto 150, però ho detto vabbè, ci penso, vediamo un pochino, perché anche questa la radio è un po' adattata, Sì, è adattata, ma non ha mai creato problemi, l'abbiamo avuta a tutti, se tu chiedi anche a Walter, la conosce molto bene, l'abbiamo avuta a tutti, ce l'aveva Vannina in macchina, l'ha tenuta per tanti anni, capito? È una bella radiolina, funziona molto molto bene, non ti crea problemi, sì, infatti tu hai detto più di 100, quindi secondo me il prezzo suo 150 euro, perché è un bel bibanda, c'ha 45 watt in V e 35 in U, c'ha la ventolina di raffreddamento, c'ha tutti i toni, c'ha la scheda a toni, c'ha tutto, è completa quella radio, il 150 euro va bene. Sì, vabbè, non ti ripeto, anche perché me ne stanno scendendo quelle frequenze, non è che... Vabbè, già ne parlerò di persona o di abbassa. No, mio ce li ho accese, sono... vedo... quello che c'è, sta buona. Sì, sì, sì. Sì, c'è Roberto con Gianfranco, 525. Io sto entrando poco in V e non, la verità, sto entrando molto poco in questi giorni, non a Giugana, faccio due chiacchiere qua, a volte sul 20 e basta. Sì, mi c'è anche Marco, cioè, ma dove sento io, non è che so tutto, me l'ha configurato sia Walter che Marco, mi ha messo una cosa apposta come, perché era un po' fuori fase, diciamo, e poche frequenze, l'accendo così, veramente, capito, niente che, poi allora, una volta che sono qua l'accendo, se vedo con lo scorcio inserito, se vedo la portante, insomma, non in ascolto secondo cosa sto facendo, capito? Sì, sì, ti hanno messo anche quella nuova in U? Credo di sì, perché ce l'ho tutte, aspetta che... Ce l'ho tutte. C'è qualcuno a basso, buonasera. Posso essere io? Cappa, salutoni Ancona, salutoni. Tu fai bianco latino, provincia di Ancona, ascolti? Ce lo vorremmo manetta adesso, vai qua. Vai, vai, Antonio che ti ha risposto, vai. Cappa, salutoni, provincia di Ancona, qui Antonio da Sassari che ti modula là e ti super cordializza, avanti. Vabbè, ti ha parlato in due, Antonio. Vabbè. Attenzione ancora, copia Antonio da Sassari. Ante, non vuoi più tardato. Cappa, qua sei un po' più basso tu. Sicuramente non è aperta bene la propaganda. Comunque, ti tolgo fuori a malapena, perché invece qua in Sardegna è un po' così. Tanto gli stai parlando sopra, stavo parlando lui, gli stai parlando sopra. Se non ritengo, cosa vuoi che ti voglia? Perché è il dito veloce. Vabbè, dimmi il finale. Il finale, tanto lo già ne tutti, sempre 5.25, 4.33. Sì, ci sono tutti quelli. Perché ci siamo spostati e c'era gente di cantiere, allora Marco ha detto di spostarsi, eravamo a 500 prima, ci siamo spostati a 525. Attenzione ancora, ascolti il nord della Sardegna, la città di Sassari che ti parla. Ugaz. È caduta la propagazione. Anto, già pappato hai. Cappa, già mangiato Aggio, ma sicuramente... Cavolo, quando mi ha detto ancora mi è arrivato bene, poi dopo non ho sentito più. Ehi, la propagazione è bassa, va, sale e scende come la marea. Scappa, non c'è che non va arriva, che cacciate mi sono fatta poco. Mi volevo piazzare il falco sopra qua, quello 550 al posto del 747. Allora, nel camper. Cazzo, ma lascia stare il 747 che va bene, c'è un buon ragione. Ma vabbè, però fa di più, capito? Beh, è chiaro da di più. Fatemi mettere uno sopra l'altro, il 747, da Fabrizio te li fai accoppiare. No, non c'è bisogno, perché l'entrata sono 10 watt, 5-10 watt, poi si rimacina lui. Guarda, va bene, ottimo per la truppa. Mi stavo prendendo il pallino stasera mentre stavo pulendo, perché l'ho visto, dove mai che lo giambo? Poi invece, vabbè, non ho avuto voglia. Ah, un 747 è un bel lineamento per la macchina, funziona bene, non distorce, va bene. Santa Vex, Antonio, cosa abbiamo mangiato? Non sempre mangiando, stava tu buh. Allora, non credo che in questi giorni ti sei fatto sul leggero. No, oggi mozzarella con la bomata e buh. Niente di che, qualche cosa così e basta. Ah, giusto per... No, io ho detto, c'è un po' di brodo perché basta, cioè, in queste feste troppo, ne ho approfittato. Quest'anno non abbiamo fatto neanche la pasta al forno. Domani, se tutto va bene, gli faccio fare il brodo, me lo mangio domani notte però, perché domani devo andare a lavorare, quindi. Bisogna, ieri abbiamo fatto fuori l'ultimo pezzo del porcetto che c'era, boh, hanno detto mi si chiede più carri, almeno per un po' di giorni o qualche settimana, cerchiamo di mangiarne di meno, perché cazzo, mamma mia, mi ha rotto le balle. Sì, vabbè, io mi sono intasato e quindi stasera neanche mangio. Poi c'è una pasta asciutta così, una pasta asciutta gnocchetti sardi, alla sardi, e poi una teglia di lumacone, ma niente di che. Marito. È rimorchio da mamma, Ah, e allora? No, noi non so neanche cosa ha preparato. Vabbè, ci vedrai, è uscita alle 4 oggi. Però siamo arrivati in un piatto di salata, la mozzarella è meglio, basta, la balla è piena. Io se ingrasso soffro subito di mal di schiena, già sto soffrendo, ho rotto le balle. E allora? Aspetta un attimo. C'è qualcuno che chiama, vediamo chi è avanti, chi chiama. Sì, in banda laterale, passa la M, sì, in banda laterale. Sì, ti ascolto magnificamente bene, ma eri in banda laterale prima, chi sei? Io parlo dalla Sardegna, città di Sassari. È sparito di nuovo. Ha detto che il suo nome è Simone. Il suo nome è Simone, avanti Simone. Mi sta parlando? Sì. Sì, aspetta, ti passo Antonio, io sono Claudio, ti passo Antonio, vai Antonio per Simone. Cappa Simone, qui Antonio dalla Sardegna, mi senti? Non lo so, devo chiedere agli altri. Ha detto se hai l'opportunità di andare in USB, ha detto. No, Giovanni, vedi no. No, ha detto di no, non ha detto. Tanto sparisce, ogni tanto appare, sparisce. Vai Tino. Simone, la propagazione è troppo bassa, non ti sento più, vai ti. Non lo so se mi ascolta, Simone, mi ascolti? Adesso sei un Santiago molto più basso, Non so se loro riescono a tirarti fuori. Ma non fa vedere con noi, fa vedere con un altro, se abbiamo come possa mano. Vabbè, pazienza. Allora, quindi è già mangiato tanto. Fumata e la tucca, è un giro di banca. È un po' così. Un giro di banca e via. Oh no, ammagnate che cose, va a bassa, se no fate i burumari. Avanti, chi è? Aspettate, ma tu. E chi è? Oh, Dino. Non so se mi ascolti a me, guarda un po' se riesci a tenermi fuori. Ho un aiutino adesso, dai. A voglia che anda. Oh, Bato, Mudu. Ancora, ancora, mi ascolti? Antonio, Antonio. No, è sparito, Dino. Non lo sento più neanche io. Volevo provare la lontananza, che stavo facendo scaldare un po' le valvole, poi mi è successo che avevo la bassa, quindi ho dovuto abbassare, poi sono ripreso, poi c'era gente qua in casa a Bucci. Insomma, è così, e c'è la fine. Come va la radio, Clark? Va bene, non c'è problema. Non fa una grande saturazione, no? No, leggermente, ma appena appena. Aspetta, provo un attimino, scusate. Ora, ora, ora. Guarda adesso, c'ho casino qua a casa. No, andiamo bene, lascia stare così. Capo, sto andando 600 watt adesso. Io ho visto l'incremento, già funziona. Antonio, mantenete lo Smith. Ma non ti gridino, non fa più 30. No, vabbè, ma questo è il piccolo, l'HR5005. Com'è il flutto questo? Già vabbè. Il cazzo è 9,30 per l'overettino, è buono. Cazzo, va bene già. Tanto qua tu con la radio mia mi sei quasi 9,10. Vabbè, non lo so, non sto spingendo, io sono poca potenza. No, per farti capire il paragone, capito? Beh, è normale. Se tu lo puoi. Dobbiamo fare una prova con un altro microfono, tu cazzo. Vabbè, ma l'hai toccato quel pulsantino sotto? Sì. E prova a farlo mentre stai parlando. Cioè, metti il lock, solleva il microfono e vai avanti e indietro con quel pulsantino che c'è sotto. Vediamo. C'è la portata, Barò. Ah, si sta accendendo la Ruzzi. Accenditi la Ruzzi, prendi il microfono in mano, metti il lock e vai con quel pulsantino avanti e indietro. Prendo la mano. Guarda a vedere com'è adesso. L'ho giratolo. Cazzo di roga, ti aiuti con il microfono. Hai sentito la differenza a te? L'ho sentita, ma non è paragonabile all'ascolto della radio, quindi al momento faccio un po' di balduri anche, però ha cambiato. Cazzo di roga, tanto con il microfono bisogna che lo sistemiamo bene, bisogna pulirlo tutto, non sta facendo bene il contatto, il circuito di preamplificazione, muovilo quel microfono, tienilo in mano, metti l'occhio e muovi quel cazzo di pulsantino. Allora, adesso, ma mi sembra che stia spingendo di più, no? E io non credo che stia spingendo di più. Allora, sicuramente c'era qualcosa, c'era. Ma l'hai già appoggiato per terra, l'hai appoggiato sul tavolino? Sì. Cazzo, sta spingendo di più, sì. Adesso fai la stessa cosa con l'altro. L'altro che c'hai sopra il microfono proprio, dove c'è scritto 50-500. Tu ce l'hai a 50. Tieni la portante calcata, anche così, senza prendere in mano il microfono. Lascialo appoggiato. E dove c'è 50-500, vai avanti e indietro. Fammelo sentire con l'occhio però, con la portante inserita. K, esita. Guarda a vedere, sono andato a 500. Prova a vedere com'è così. Ora, migliorato. O lo rimetto come era prima? No, metto a 50. Aspetta. Ecco qua, ora va bene. È sporco quel microfono, tu. Quel microfono bisogna prenderlo, pulirlo per bene, soprattutto sotto, tutti i contatti, e poi riattaccarlo. Sì, ma ho capito, era girato il tasto, Come era girato il tasto? Sotto, era girato il tasto. Eia. Era in posizione, l'hai messo in avanti adesso, in out, in. La prima posizione l'ho messa, e la radio va meglio. Ma roba romantica, te vedi che ora c'è il microfono chiuso, che... adesso è tornato un po', no? Va bene. Adesso la radio...